Sappiate che in Francia il vitalizio arriva a 60 anni e di 780 euro per chi fa una legislatura. In Germania la liquidazione cosiddetta è di 7.600 euro per 5 mesi, quindi insomma circa sui 40.000 euro, beh, più o meno come quella italiana. La pensione però non è di 2.500 euro per chi fa un mandato, ma 961 euro e arriva a 67 anni di età. Vabbè, sulla questione finanziaria voglio dire in rapida conclusione, c'è molto sulla questione ovviamente dell'America, ci si concentra sul Sole 24 Ore, anche sulla questione dei bot, e segnalo solo Aldo Cazzullo che intervista sul Corriere a pagina 2 e 3 l'ex premier Giuliano Amato, uno sforzo per la ricchezza di tutti. Amato rilancia che cosa? L'una tantum, eccolo qui. Continuo a pensare che prima o poi dovremmo trovare l'impegno che in certi grandi momenti della storia abbiamo avuto di lavorare pancia a terra e far produrre al paese tutto quello che può produrre. Allora io sono quello che ha detto: se un'imposta sulla ricchezza una tantum può abbattere il nostro debito per qualche decina di punti e tranquillizzare i mercati, non possiamo sottrarci. La patrimoniale di Amato, l'una tantum, rilanciato oggi dal Corriere della Sera. Chiudo con lo sport, perché a giudizio l'Atalanta trema, ma la Gazzetta dice che la Serie A è salva, si rischiano solo punti, ma certo c'è molto di questa vicenda con anche dei lati tragicomici. Deferito il Chievo perché? Perché Stefano Bettarini, 39 anni, uno che col calcio ormai c'entrava poco col calcio giocato, era tesserato del Chievo. Si è allenato qualche spezzone al Bentegodi, siccome è stato trovato insomma in questo giro di scommesse, ecco così che il Chievo, che l'aveva tesserato l'anno scorso, ripeto, uno che si era presentato solo a fare qualche allenamento, ma è pur sempre un bello conosciuto con molte entrature, allora il Chievo aveva pensato bene, ma sì, diamogli 20.000 euro a stagione, il minimo sindacale, lo tesseriamo, magari ci potrà tornare utile per qualche non so, entratura in TV. Scommesse, quindi hanno deferito il Chievo perché tra i giocatori suoi risulta Stefano Bettarini. Ma come? Misteri del calcio. 24 mattino, l'intervista. Sono le 8 e 20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua in diretta. Allora voglio salutare il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, lei ieri ha incontrato Berlusconi, ha chiesto di sbloccare 500 milioni per Napoli. Cos'è? Lei ha subito chiarito, non è l'elemosina, cosa sono sti 500 milioni? No, ma vogliamo subito chiarire che non si tratta di soldi aggiuntivi. Noi abbiamo la regione Campania che ha dei fondi europei che devono essere destinati a Napoli, già previsti, già stanziati e già deliberati. Non vengono consegnati a Napoli perché la regione Campania ha il tetto del patto di stabilità. Allora, per evitare l'assurdo che questi soldi vengano consegnati nuovamente a Bruxelles, abbiamo chiesto al governo di essere nominati come organo intermedio che è previsto, cioè direttamente attribuibili i soldi a Napoli, che si impegna a spenderli, rendi conto, e quindi in questo modo otteniamo non solo che i soldi vengono spesi bene, si rilancia occupazione, lavoro e lo sviluppo della città e non vengono restituiti a Bruxelles. Abbiamo presentato un piano che non è solo rifiuti, ma i rifiuti, ambiente, infrastrutture, cultura e rilancio delle politiche industriali nella città. Per utilizzare questi soldi, ma glieli sbloccherà? Perché pare che l'incontro sia... è vero che l'incontro è stato un po' freddino, è la prima volta che vi incontravate, cioè la prima volta che vi siete stretti la mano, lei e Berlusconi? Guardi, la prima volta che l'incontro io non so dire se è stato freddo o è stato caldo, io conosco gli incontri istituzionali, questo è un incontro del sindaco di Napoli e il presidente del Consiglio e credo che sia stato un incontro istituzionalmente molto corretto da entrambe le parti. Io non ho nessun motivo per ritenere che sia stato freddo il Presidente del Consiglio nei confronti del sindaco di tutti i cittadini napoletani. No, il problema è se glieli sbloccherà, perché adesso dovrà decidere, magari non so se in questo dici rapporti istituzionali, ma i rapporti anche personali non incidono. Ah, ma questo non è che è un piacere che fa il sindaco di Napoli, questo è qualcosa che interessa la regione che è guidata al centrodestra, interessa la provincia che è guidata al centrodestra, interessa il governo che è guidato al centrodestra ed interessa il sindaco di Napoli e tutti i cittadini napoletani, che sono somme che altrimenti vengono ridate a Bruxelles. Se qualcuno preferisce che vengano consigliata a Bruxelles, ne prenderemo atto, ma io non ho nessun motivo di ritenere che questo accada. Senta, anzi, però, prima volta c'è qualcuno che si vuole assumere la responsabilità di spenderle rispetto al passato. C'è però un punto, Sindaco, sul quale credo non siete in accordo, perché l'ha incontrato anche il ministro Prestigiacomo e il governo ha rilanciato sulla necessità di fare un inceneritore a Napoli Est. Il governo lo vuole e voi, mi pare di capire, siete sulla linea no. È questo il punto. Ma, guardi, io ho fatto un discorso sui rifiuti anche a tutto tondo col Presidente del Consiglio. Devo dire, nessun... preclusione, pregiudizio e indicazione pregiudiziale è stata data sull'inceneritore da parte del Presidente del Consiglio, ma nemmeno da parte del Ministro Prestigiacomo. Noi sappiamo che il Presidente della Regione, così come altri, vogliono l'inceneritore. Noi abbiamo ribadito il nostro no, abbiamo ribadito la fondatezza del nostro piano, che si fonda su differenziata, compostaggio e altre tecniche ecocompatibili che in materia ambientale sono rivoluzionarie, che non ci sono mai state, diciamo, fino a questo momento in Italia. Altri puntano sulle discariche, altri puntano sugli inceneritori, quindi, come dire, anche su questo ci sono idee diverse, ma mi pare di capire che c'è l'obiettivo comune da parte del governo quantomeno di aiutare Napoli sul piano economico finanziario per la raccolta differenziata. Intanto, a proposito di differenziata, ieri l'Istat ha certificato che siete al 17,7%. Lei a questi microfoni ha promesso a fine anno di arrivare a quanto? Ha detto ci arriviamo sicuro, lo farete quanto? Allora, innanzitutto quel dato si riferisce alle amministrazioni precedenti. Sì, certo, chiarire, perché sennò è meglio chiarirlo. Noi iniziamo da settembre con i nostri soldi, che sono molto pochi, ma li abbiamo investiti tutti o quasi tutti in ambiente. Raggiungiamo da settembre a dicembre 325.000 abitanti. In più si aggiunge, attraverso lo stanziamento previsto dal governo, altri 170.000 abitanti, arriviamo a 500.000. A questi si aggiunge la raccolta differenziata che si fa attraverso le isole ecologiche in tutta la città. Quindi gli obiettivi sono obiettivi molto molto ambiziosi, perché sappiamo che Napoli e i cittadini napoletani, quando adeguatamente e concretamente stimolati, sanno dare una risposta molto al di sopra della media. Quindi siamo molto fiduciosi. Per il resto, voglio chiudere, per la spazzatura che ancora è per strada, anche se in situazioni di straordinaria eccezionalità stiamo facendo il massimo, la città è molto molto pulita rispetto al passato, il resto lo porteremo provvisoriamente all'estero in modo da consentire di tenere Napoli pulita e fare la non al nord, non al nord, perché è passato è passato un ordine del giorno, il decreto rifiuti guardi, il problema qual è? Il nord, io capisco tutto, però noi abbiamo assistito negli anni passati a molti imprenditori del nord senza scrupoli che hanno portato rifiuti tossico-nocivi a Napoli città, in provincia di Caserta e quant'altro. Noi adesso c'era semplicemente, in un momento di unità nazionale, di portare dei rifiuti a regola d'arte, quindi legittimi, che tra l'altro ci chiedevano imprenditori del nord, perché hanno inceneritori chiusi e lavoratori per chi non li ha voluti? La Lega? La Lega non li vuole, perché vuole evidentemente in questo momento una divisione del paese. Noi prendiamo atto e rispettiamo la posizione della Lega, tant'è vero che ce la stiamo facendo da sola, anche se è spiacevole vedere in un momento di difficoltà alcune regioni che dicono un no, che un no dettato solo da un pregiudizio politico. Senta, a proposito di Lega, la Lega ha aperto i ministeri, o meglio, degli uffici decentrati. Napolitano si è arrabbiato e qualcuno dice, perché allora anche a Napoli il turismo, ma anche gli stessi leghisti dicono un dicastero del turismo distaccato a Napoli. Lei lo vedrebbe bene e come giudica questa vicenda? Io sono molto d'accordo con le posizioni del Presidente della Repubblica. L'Italia è unita, i ministeri debbono stare a Roma. Diverso è creare poi degli uffici, delle articolazioni anche operative e funzionali in diverse parti d'Italia, come può essere a Milano, a Napoli, anche altre parti. Ma questi già ci sono, forse. I ministeri debbano stare a Roma. Tutti questa a Roma. È l'idea, secondo me. Però la Lega dice non è che sono i ministeri, sono uffici distaccati. Cioè, insomma, non è proprio così. Se parlano di uffici distaccati, come può essere sempre per lo sviluppo economico, ecco, colgo l'occasione. Allora, perché non si crea, visto che Tremonti ha detto più volte che vuole rilanciare un piano per il sud, si crea a Napoli un ufficio strategico che immediatamente rendi operativo un piano, diciamo, di investimenti concreti e non aleatori per il Mezzogiorno d'Italia. Apriamolo a Napoli, questo ufficio potrebbe essere un segnale, ministeri devono stare a Roma. Vuole l'ufficio decentrato dello sviluppo economico, magari a Napoli. Senta, invece, sull'altra questione del PD, ma la superiorità morale della sinistra esiste? Secondo me in questo momento non esiste, perché sono saltati gli schemi. In questo momento, secondo me, esiste una grande voglia di politica dalle mani pulite che viene dal basso. È quello che ho visto nella mia campagna elettorale a Napoli, dei tanti giovani, e sono giovani che appartengono un po' anche a schieramenti politici diversi. Io credo da tempo, del resto anche l'ho visto facendo il lavoro di magistrato per 15 anni, se uno facesse la domanda ti sei trovato di fronte a politici inquisiti più di centrodestra o più di centrosinistra, non saprei rispondere. Quindi non esiste in questo momento, secondo me, una superiorità morale del, men che mai del PD ovviamente, né del centrosinistra. Rubano bipartisan quando rubano, no, se, rubano se rubano, se rubano. Ma, diciamo, secondo me, da un punto di vista, se parliamo di punto di vista penale, perché pare di questo stiamo parlando, sì, di questione morale penale, quindi questione giudiziaria, secondo me sostanzialmente non c'è una differenza e quindi non c'è una superiorità etica dal punto di vista penale di un certo schieramento politico. Senta, allora per concludere, non ci dice niente di questo incontro, ma lei dice istituzionale, non freddo, perché dopo di lei è entrato Lino Banfi, ma l'ha incrociato Lino Banfi? No, non ho avuto il piacere di incrociarlo. Guardi, io lo da so Berlusconi, è andato Lino Banfi, dice che l'ha trovato abbattuto. Sicuramente è la prima volta che io l'ho incontrato, quindi non so fare paragoni con il prima e il dopo. Io posso dire che è stato un incontro istituzionalmente corretto, cordiale, e credo insomma che non è l'ultimo incontro. Io ho chiesto anche al Presidente del Consiglio appunto un dialogo costante, permanente, corretto tra l'amministrazione comunale di Napoli e il governo. Perché ricordiamo che Napoli è la terza città d'Italia, una città che merita rispetto. Sicuramente barzellette no. Non ho ascoltato barzellette, anche perché posso raccontare barzellette quel quadro. Poi non era un giorno ieri muto, diceva il Presidente del Consiglio. Ah no, è vero. Aveva dovuto dare soldi alla, a De Benedetti. Perché noi siamo andati a parlare di soldi, quindi non era forse anche ideale. Lei mi chiede soldi. No, è diverso. Molto no, diverso. Vabbè, è chiaro che è molto diversa la situazione. Va bene, la ringrazio, sindaco. Grazie. Per essere stato con noi. Luigi De Magistris, a voi. Luigi De Magistris è il sindaco di Napoli. Allora ci fermiamo per la pubblicità e il meteo, e poi parliamo di questa decisione della Corte Costituzionale sul tema immigrazione. Prima, nel pacchetto sicurezza voluto dalla Lega, se un immigrato irregolare voleva sposarsi, non poteva, perché doveva presentare il certificato, il documento che tutti in regola. Ora la Corte Costituzionale ha detto no, anche gli irregolari si possono sposare, perché il diritto al matrimonio deve essere sancito per tutti. La Lega dice, ecco così, via alle regolarizzazioni con i matrimoni di comodo. 24 mattino. Eccoci qua, allora parliamo di immigrazione nello specifico, dalle 8:35 minuti, parliamo di questa decisione della Corte Costituzionale che ha sancito che anche l'immigrato irregolare ha diritto a sposarsi, nonostante quello che prevedeva il pacchetto sicurezza voluto un paio di anni fa. È il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E il pacchetto sicurezza, che era fortemente voluto dal governo, dalla Lega, ha detto e aveva sancito l'immigrato irregolare non si può sposare, deve produrre il permesso di soggiorno, altrimenti ci sono i cosiddetti matrimoni di comodo, irregolari che si sposano, poi vogliono, per questo hanno diritto alla regolarizzazione, poi dopo 2 anni e mezzo possono chiedere la cittadinanza italiana se sono sposati con un italiano o un'italiana. La Corte Costituzionale ha detto questi veti non si possono mettere, il matrimonio si può fare, si deve fare, è un diritto sancito dalla Costituzione, anche se un immigrato è irregolare. La Corte Costituzionale ha deciso su un caso di una coppia che si è rivolta al Tribunale di Catania. Allora, che ne pensate? Il 70% dei nostri ascoltatori dice non siamo d'accordo con questa decisione della Corte Costituzionale. Immagino che così sia anche il senatore Sandro Mazzatorta della Lega, che saluto. Senatore, buongiorno. Buongiorno. Lei è anche sindaco di Chiari, in provincia di Brescia. Saluto anche l'onorevole Livia Turco, responsabile di immigrazione del Partito Democratico. Buongiorno. Lei invece, onorevole Turco, vorrei partire da lei. Cosa ne pensa? Una decisione di saggia, giusta da parte della Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale ha come suo compito, sua sacra funzione, quella di interpretare la Costituzione, e ha ritenuto questa norma irragionevole e lesiva proprio del principio costituzionale della libertà delle persone, perché qui stiamo parlando proprio della vita intima delle persone, cioè quella di sposarsi, quindi si presuppone una relazione peraltro reciproca e quindi in questo caso una relazione che non coinvolge soltanto un immigrato ma coinvolge anche un italiano, quindi direi che un contesto in cui italiano e immigrato proprio non conta, mm. È un contesto, la relazione d'amore in cui contano due persone. Sono gli affetti. Sono gli affetti. Lei non nasconderà però che c'è il problema, sicuramente c'è, dei cosiddetti matrimoni di comodo. Vedi, i matrimoni di comodo, a parte il fatto che ci sono delle norme che li colpiscono sia nella legge sulla cittadinanza sia in altre normative, però il matrimonio di comodo tante volte avviene tra persone che sono regolarissime, non è che il matrimonio di comodo sia legato alla condizione di irregolarità. Il matrimonio di comodo sono tante persone che eventualmente decidono di sposarsi per una convenienza. Sì, cioè anche due italiani. Anche due italiani, ma se mi consente, per combattere il matrimonio di comodo il punto non è l'irregolarità, è la persona che si sente truffata e che a un certo punto reagisce. E poi comunque ci sono norme specifiche e, ripeto, in tanti casi di matrimonio di comodo sono più legati all'acquisizione della cittadinanza che non alla condizione di irregolarità. Sì, sì. Quindi tenderei a distinguere, è una confusione di situazioni, oltre che una confusione giuridica. Allora, io, senatore Mazzatorta, facendo un po' come ha detto l'onorevole Turco, io ho preso anche un articolo di un paio d'anni fa di Famiglia Cristiana, quando uscì il pacchetto sicurezza, che insomma ricalca un po' le parole che abbiamo sentito l'onorevole Turco, a dire anche ci fossero i matrimoni di comodo, e poi Turco dice ci sono anche tra italiani gente che si sposa per altri interessi che non sono quelli d'amore, diciamo. E poi anche se fosse così, perché negare invece, non so, mettiamo il 50% sono di comodo, perché negare all'altro 50% di coppie di sposarsi anche se sono irregolari? Perché negare l'amore tra due persone? Ecco, la vogliamo buttare sui sentimenti, senatore? Ma qui stiamo parlando di clandestini, di stranieri clandestini, sì, vabbè, cioè certo. Di persone che sono entrate nel nostro territorio senza aver rispettato le nostre norme sull'ingresso e sul soggiorno. Abbiamo trasformato questa condotta in un reato, adeguandoci all'Europa. È chiaro che io da sindaco mi trovo in imbarazzo totale a mettermi la fascia tricolore e a celebrare un matrimonio tra un'italiana o un italiano e uno straniero clandestino che invece dovrei portare anche, in questura per l'identificazione e al centro per l'espulsione. Sì, però le chiedo, anche un clandestino come chiamano lei si può innamorare, insomma, può capitare, ripeto, noi dobbiamo prima di tutto contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare, almeno questo è a parole di tutti l'imperativo categorico. E poi di fronte a un clandestino, spesso e volentieri, ripeto come ha detto lei, che cerca questo matrimonio di comodo per ottenere poi la cittadinanza nei 2 anni o nei 3 anni si risiede all'estero, e noi dobbiamo far finta di niente e dire no, questo sta commettendo un reato in piena flagranza di reato, il pubblico ufficiale lo deve sposare. Siamo all'assurdità totale, questa sentenza della Corte è la sentenza di una Corte Costituzionale che non conosce i problemi, non conosce nemmeno la dinamica di come funzionano queste cose per un comune, per un pubblico ufficiale che riceve gli atti dello Stato civile. Cioè, lei si pone parte di quel modo di operare di una parte della giurisprudenza e vuol sovvertire la volontà che è stata espressa in una legge democraticamente approvata dal Parlamento. Però mi scusi, sovvertire, cioè la Corte Costituzionale vige sulla costituzionalità delle leggi, se trova che una legge che è fatta da una maggioranza è incostituzionale in un punto, cosa deve fare? D'altra lei parte non potrebbe dire non chiudere un occhio? No. Ma se lei legge quella sentenza si accorgerà che è piena di valutazioni politiche e discrezionali, parla di un bilanciamento che ovviamente a questo punto è nelle mani discrezionali del giudizio politico di 15 giudici che decidono se questo bilanciamento è corretto o meno. Una sentenza politica, lei dice. È perfetta, è sentenza politicamente perfetta. Una sentenza politicamente perfetta, onorevole Turco, risponda su questo, però le chiedo anche. Siccome è tutt'altro che sentenza politicamente perfetta, ma è scrupolosa interpretazione del dettato costituzionale, vorrei leggere 2 passaggi cruciali di questa sentenza. La prima: la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi. Questo è un punto che attraversa tutto il nostro dettato costituzionale. E inoltre, prosegue la sentenza, è evidente che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre del matrimonio nel nostro paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana a che tale diritto intende esercitare. E poi anche sulla definizione di irregolare, clandestino, sono due cose diverse. Ci sono tantissime persone che entrano nel nostro paese, questa è la faccia della retorica leghista che dice facciamoli fuori tutti, pugno di ferro, reato di immigrazione clandestina, da quando loro sono lì col pugno di ferro, col reato di immigrazione clandestina, con tutte le leggi peggiori che stanno tra l'altro cadendo e sbriciolandosi sotto le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea, c'è la realtà, e la realtà è che molte persone entrano nel nostro paese in modo regolare con un visto turistico, che poi però siccome non trovano i canali regolari dell'immigrazione diventano irregolari, non sono persone che commettono reati. Però se c'è il reato di clandestinità o di essere irregolari, questo già di per sé è un reato. È su questo che lei, senatore Mazzatorta, punta. Cioè, lei vuole dire anche l'imbarazzo di dire: io, pubblico ufficiale, con la fascia di sindaco, devo sposare uno sapendo che è un irregolare. Quindi è palesemente in violazione della legge. La legge voluta. Sì, i riferimenti che faceva l'onorevole Turco sono riferimenti a uno straniero regolarmente soggiornante. Qui ci troviamo di fronte ad una persona, ripeto, clandestina, e dunque che non è, può essere considerata la pari di uno straniero regolarmente soggiornante, ma a meno che vogliamo eliminare completamente come situazione irregolare. Senatore, però mi faccia capire, sì. uno che entra regolarmente, come dice l'onorevole Turco, e poi perde, non so, non trova il posto di lavoro, perde la condizione di regolarità, entra nell'irregolarità, questo si può sposare con il pacchetto sicurezza che volevate voi? Perché ovviamente un titolo di soggiorno deve averlo, perché entra in una situazione di clandestinità, questo accade in tutti i paesi europei. Capisce però, senatore, che questo pone un problema, cioè uno entra regolare, si innamora di una persona, si vuole sposare dopo due anni, nel frattempo diventa irregolare, non si può più sposare secondo il pacchetto sicurezza. Questo. Guardi, allora ripeto, qui dobbiamo capirci se vogliamo davvero contrastare l'immigrazione irregolare. L'affetto, le relazioni affettive passano in secondo ordine. Siamo o no uno Stato? Uno Stato è fatto da tre elementi: il popolo, il governo e il territorio. Vogliamo difendere le frontiere o non difenderle queste frontiere? Vabbè, ma come passa? Non vogliamo difenderle a questo punto, diciamo. Di relazioni in cui è in gioco anche una persona italiana, non c'è l'italiano e la straniero. Qui è una relazione affettiva. È la sfera intima della persona, che per rispettare questa sfera intima della persona ci debba essere anche il passaporto valido in quel momento, è una limitazione di questa libertà. Beh, però il senatore Mazzatorta, da qui voglio ripartire dopo le informazioni sul traffico, l'ha detto chiaro: per difendere e contrastare l'irregolarità, anche gli affetti devono passare in secondo piano. Cioè, se uno vuol fare una politica di contrasto all'immigrazione irregolare, magari deve anche passare su alcune cose, magari col carro armato, anche sugli affetti, che devono arrivare dopo. Prima ci vogliono le condizioni di regolarità, le leggi da rispettare. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, parliamo di matrimoni e di matrimoni tra immigrati, anche quando l'immigrato è irregolare. La Corte Costituzionale ha sancito ha diritto a sposarsi, nonostante invece il pacchetto sicurezza si esprimesse al contrario, perché imponeva all'immigrato di presentare tre documenti e anche il documento di regolare soggiorno. Vorrei sentire Roberto dalla provincia di Caserta, buongiorno. Sì, salve, dica. Buongiorno. Sono perfettamente allineato con quanto è stato sancito dalla Corte Costituzionale, anche in virtù di alcune considerazioni. Ritengo che il diritto a decidere di sposarsi sia un diritto personalissimo, come il diritto alla vita, come il diritto alla salute, che l'Italia pure ha voluto sancire costituzionalmente. E quindi non possa essere sicuramente impedito a una persona che così autonomamente e liberamente decide di sposarsi, al di là di tutte le altre considerazioni che sono sicuramente secondarie, importanti, ma secondarie. Lei dice invece va in primo piano, rientra in primo piano questa cosa degli affetti personali. Grazie Roberto. Vorrei andare a Luigi, da Luigi a Pisa. Buongiorno. Buongiorno a voi. Io vorrei dire ai signori della Lega che a volte subentra la difesa personale di qualsiasi persona a superare degli ostacoli che loro hanno messo negli ultimi anni, che saranno anche ostacoli leciti, ma faccio anche un esempio non solo dei matrimoni, faccio l'esempio anche dei flussi. L'ultimo flusso fatto dal governo attuale è stato fatto in modo che le persone che hanno partecipato al flusso non possono vedere che situazioni di territorio sono. Se questa è libertà, la Lega poi non si deve lamentare se la gente cerca di fare a modo suo. Va bene, grazie Luigi. Allora, io, senatore Mazzatorta, vorrei un attimo ritornare su questo caso perché vorrei farlo capire bene. Non parliamo, che ne so, dell'irregolare magari che delinque anche e che vuole fare un matrimonio di comodo e trova qualcuno per fare un matrimonio di comodo e per ottenere la regolarizzazione, eccetera. Parliamo appunto di una persona, ce ne sono tanti, di immigrati regolari che magari a un certo punto perdono il posto di lavoro, si trovano in una situazione di irregolarità, con la crisi ce ne sono stati. Queste persone, se nel frattempo si sono innamorate e avevano, non si può, cioè secondo il pacchetto sicurezza non si possono sposare. Lei dice deve passare in secondo piano questa questione rispetto a quella in primo piano della tutela delle norme. Per questo che ho parlato di una sentenza politica, perché la Corte dice facciamo un bilanciamento tra gli affetti e la sicurezza di uno Stato e dice devono prevalere gli affetti. Sì. Noi diciamo non è possibile che, ripeto, quando anche siano matrimoni seri e invece sono spesso e volentieri matrimoni di comodo, con addirittura delle bande specializzate in questo tipo di attività criminale, mettono in collegamento clandestini che hanno bisogno di questa comoda sanatoria con italiane o italiani, spesso e volentieri italiane in difficoltà o italiani che hanno età avanzate, no? Per cui c'è anche un problema spesso di circonvenzione di incapace, per cui trovi magari il nonnetto di 90 anni che sposa l'albanese di 20 anni. Ecco. Quindi questo bilanciamento ovviamente è una valutazione di carattere prettamente politico che uno Stato deve fare, così come negli altri paesi europei questo bilanciamento va sempre a favore del controllo delle frontiere e della sicurezza del territorio. In questo Stato, che ormai diventa da vedere un paese di Pulcinella, questo bilanciamento deve far prevalere il diritto all'affetto del clandestino. Mi pare davvero una cosa assurda. Allora, onorevole Turco, lei ha detto che ci sono le norme comunque per contrastare i matrimoni di comodo, cioè quali sono queste norme? Se uno scopre, che ne so, che appunto il novantenne ha sposato l'albanese, adesso diciamo l'albanese o una qualsiasi cittadina di 20 anni, che succede? Sì, poi? Il matrimonio di comodo è perseguito all'interno della legge sulla cittadinanza, ci sono delle fattispecie, cioè articoli specifici, costituisce una fattispecie che è perseguita, quindi non c'è bisogno di inventare un'altra norma ad hoc. La legge sulla cittadinanza che regola anche il considera una fattispecie criminosa il matrimonio di comodo. Però la Lega che in genere ha come soggetti che non sono in condizione giuridica irregolare. Sì, ecco, quindi questo è il punto. Però la Lega e poi dice... lei ha ragione nel definire bene di chi stiamo parlando. Noi stiamo parlando non del clandestino che approda sulle coste di Lampedusa, disperati, abbiamo presente? Beh, però ci potrebbe essere anche quello. Gli dà il reato di immigrazione clandestino che vengono immediatamente espulsi e tra l'altro quelli che vediamo arrivare da Lampedusa sono una minima parte, perché la stragrande maggioranza invece arrivano dall'est, arrivano via terra e non via mare con un visto turistico, il visto turistico gli scade e nel frattempo magari loro hanno trovato lavoro, perché questo paese governato dal centrodestra con una politica repressiva è la politica che fomenta e che alimenta l'irregolarità, perché queste persone che entrano con un visto turistico e che non trovano le vie legali e regolari dell'immigrazione diventano irregolari. Sì, però onorevole Turco, la Lega creano irregolarità. No, ma la Lega però dice, non so, quella che sposa il novantenne, è vero, c'è la legge che tutela poi il novantenne, però intanto questa persona si prende il permesso di soggiorno e magari chiede la cittadinanza italiana e magari diventa regolare, chissà cosa viene a fare. Ma stiamo parlando di cose patologiche, guardi che i casi, di quali sono i casi, e poi comunque questi sono perseguiti dalla normativa DOC che predispone, che vieta appunto i matrimoni di comodo. Ma evitiamo di fare la caricatura di questo nostro paese. Se ci sono questi casi sono assolutamente marginali. La stragrande maggioranza delle situazioni, che peraltro stiamo anche qui parlando di situazioni molto limitate, di 30.000 casi di matrimoni di comodo negli ultimi 10 anni. Persone che sono in Italia da tanto tempo, che sono entrate con un visto turistico, che nel frattempo hanno trovato un lavoro, però un lavoro irregolare, restano in condizioni di irregolarità. Perché sì, appunto sì. Non si, dice questi perdono il diritto al matrimonio. Giorno, sì. Non si, queste persone che nel frattempo vivono in Italia, stanno con noi, stanno nelle nostre case. Sì, lei dice questi qui non possono sposare. Un italiano si innamora di loro e decidono di sposarsi. Non possono. Però il senatore Mazzatorta dice 30.000, diceva i dati, 30.000. No, è uno studio dell'Associazione Matrimonialisti Italiani che trovate su internet. Stima di almeno 30.000 casi di matrimoni fra clandestini e italiani negli ultimi 10 anni. Sì. Avvenuti spesso, ripeto, con pagamento di tariffe, perché c'è addirittura un tariffario, come sindaci ne eravamo perfettamente a conoscenza, anche le questure, penso per esempio a questura di Treviso, mi ricordo, fece una circolare ai sindaci per dire di monitorare questo fenomeno, che era un fenomeno criminale. Ma lei è mai capitato? Lei è mai capitato a Chiari? Sì, è capitato addirittura, è capitato una tossicodipendente sarda che era notoriamente conosciuta dalle forze dell'ordine perché avvicinava appunto per ottenere poi un compenso da questi clandestini che chiedevano di poter pubblicare gli atti di stato civile per il matrimonio. Era una situazione assurda. Si è sposato una volta al limite. No, ma questo addirittura faceva anche una sorta di attività di truffa per cui avvicinava più clandestini, perché poi ovviamente c'erano anche queste situazioni al limite dell'assurdo, poi la fantasia umana arriva a questo. Però mi consenta di dire una cosa, prima si è detto ci sono norme che intervengono sui matrimoni di convenienza. Ecco, c'è una norma che ha fatto proprio l'onorevole Turco, è l'articolo 30 del testo unico sull'immigrazione. Il problema è che dal 1998 quella norma non è mai stata applicata, perché fare la revoca di un permesso di soggiorno perché il matrimonio è di comodo o di convenienza non è mai stata applicata. Dice, una volta. Ma vai a dimostrarlo, cioè come dimostrarlo? Qual è la difficoltà? Appunto, è per evitare queste norme assurde per cui si dice si può revocare, anche la Corte Costituzionale nella sua motivazione dice non dovevate vietare lo straniero clandestino di sposarsi, ma dovete invece applicare l'articolo 30 del testo unico e quindi revocare il permesso di soggiorno. Il problema è che le questure, da quando è in vigore questa legge, non sono mai riuscite una volta ad applicarla. Sentiamo Stefano da Grosseto come ultimo ascoltatore. Stefano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Mi porto la mia testimonianza e chiedo scusa all'onorevole se non mi trovo d'accordo, ma io nella mia piccola esperienza ho vissuto 10 anni negli Stati Uniti, da residente negli Stati Uniti ho sposato un'italiana non residente, facendo io da garante al matrimonio. Il giudice non mi ha sicuramente contestato il fatto che stessi sposando un'italiana con cui poi io nel tempo mi sono separato, un ottimo rapporto, ma lei è rimasta negli Stati Uniti, ha preso la cittadinanza, io invece sono tornato in Italia a lavorare e tutto va bene e si capisce. Mi sembra demagogico, mi sembra quasi di voler mettere un tappo a una diga cercando di fermare l'acqua che cade. La questione è che tutte e due eravate regolari, o no? Mi sembra di capire, regolari dal punto di vista della legge americana. Io ero regolare, la mia moglie no. Viveva in Italia, residente in Italia. E lei ha fatto da garante e questo... Assolutamente, ma come me, mi ricordo c'era una fila infinita di persone che a New York entravano nell'ufficio del predisposto al matrimonio, ci si sposava. E basta. Contenti, tornava a casa in una forma assolutamente democratica, dell'assurdo. Ma ci mancherebbe, insomma, è la sua opinione. Grazie Stefano, saluto e concludo il senatore della Lega Sandro Mazzatorta e l'onorevole del Partito Democratico Livia Turco per essere stati con noi. Allora, con Franco Piantanida che ci ha aiutato in redazione, saluto Laura Faggini, Elisabetta Fusconi e il nostro Paolo Corleoni in regia. La linea va a Oscar Giannino, noi ci troviamo domattina puntuali 7:20.